E sarà per qualche minuto d'anticipo. Oggi non abbiamo, o almeno per adesso non abbiamo, la palla 2 di Paolo che stiamo aspettando e che magari otterremo nel procedere di questo Move to Groove. Quando non si ha la palla 2 come al playground, si fa pari o dispari di solito, ma in questo caso direi di procedere con amiche, amici sportivi e non sportivi. Il Move to Groove di oggi vi porterà a conoscere diverse sensazioni ed emozioni di una certa età, anche se di fronte a me un giovanissimo Pietro Rossi già saluta. Buongiorno Rookie of the Year. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, soprattutto alla terza età. Esattamente. La terza età cestistica. Precisiamo, certo, perché anche certo, se ormai è diventata talmente estesa che è ufficiale, molto sì, è avanti, vero, è vero. Molto avanti. Complimenti. Parleremo di luci e ombre, ma in fondo mica fa niente di male, voglio dire, no, una cosa molto bella, la passione, un sano agonismo, voglia di stare assieme. Qualche milione all'anno. Sì, non fa mica male, non fa mica male, perché vi è di tutto dietro a tutto ciò. E poi parallelismi con una, come ho detto, continuità e quotidianità per quanto riguarda questo attaccamento, no? Questo motivo quasi patologico di essere legati. Non riuscire a smettere. Non riuscire a smettere. Potrebbe essere qualsiasi sport. Sì, potrebbe sì, essere il lavoro anche, no? A volte per forza, perché non si va più in pensione. Ma questo è un altro. Lì non si riesce per altri motivi. No, sono altri motivi e non così divertenti. Però magari per quanto riguarda l'aspetto cestistico c'è veramente qualcosa di maniacale, ecco, forse è la parola più giusta per portare avanti, anche se purtroppo il fisico non è mica più quello di prima, le motivazioni ci sono, ma il reagire del fisico, e ne ho provata personale, è molto molto diversa. Come si reagisce a tutto ciò? Confesso, poi non do tanti pareri personali, io l'ho presa bene, ecco, se vogliamo. C'è chi non la prende benissimo. No, anzi. E continua. Intanto do il buongiorno a Lino, che dice al 333-180-9494. Attendo trepidante la nuova puntata di Move to Groove. Un po', siccome hai qualche anno in più di me, magari ne sei coinvolto. Aspettiamo le tue opinioni e la tua co-conduzione a questo attaccamento assoluto. Molti vivono il momento del ritiro, che poi un ritiro non diventerà mai, perché un tempo con il playground ci si trovava e si continuava a giocare tra amici, molto bello, ci mancherebbe. Anche il fatto che negli anni a seguire iniziarono con gli over 35, che poi diventarono over 40 e poi over 45 fino agli over 70, mi pare una cosa veramente molto molto intensa per quanto riguarda la passione. Come li vedi questi atleti, Pietro? Ma allora, come dire, da un certo punto di vista provo molta empatia, perché che bello, no, voler continuare a giocare, a esprimere la propria passione e quant'altro. Dall'altra parte della medaglia mi viene da dire, però basta. Ma non vi rendete conto? No, esatto, soprattutto no, basta in quell'ottica dove sei stato, prendiamo il professionismo dell'NBA, del basket europeo, se hai raggiunto un livello così alto, quel livello così alto dopo un po' è solo una discesa, cosa certo, intendo? Non puoi mantenerlo per un tot di tempo, e quindi no, cosa ne trovi in provarlo in un livello che è molto anacquato e molto... è quasi una caricatura, no? Quindi forse è meglio smettere. Per certi atleti si arriva a dare onore a un monumento, ma per quanto riguarda l'idea del monumento è statico. Non sono d'accordissimo. Motilità al monumento, ne rendi omaggio, ti rendi certamente concretamente sensazione di quello che è stato, ma non ha movimento, non ha, perché va da sé, il monumento resta statico. Detto questo, mettiamo un po' di musica con Clifford Jordan e questo brano che rende omaggio a John Coltrane, a proposito di grandi monumenti, capito? Questo apre la nostra playlist. E poi alcune riflessioni chiacchierando così con altri atleti che ha riportato il mio carissimo amico fraterno Adam Filippi, parlando con Bob McAdoo e, quando ancora era tra noi, Darrell Dawkins, tra pochissimo qua al Mood Groove. Speciale gerontocrazia cestistica, lo possiamo chiamare così. Vabbè, oh, LeBron James ha 40 anni. A proposito di tutto ciò, due grandissimi parere personale. Bob McAdoo è stato il più grande giocatore che abbia mai calcato un parquet europeo. Ricordate sempre del periodo in cui io mi attengo, che è una specificità importante per le mie affermazioni molto assertive. Quindi è stato miglior giocatore della Lega NBA e miglior realizzatore per un anno, anzi miglior realizzatore mi pare per diverse stagioni. Un giocatore incredibile, un giocatore fortissimo e un grande professionista. Daryl Dawkins, Baby Gorilla, Thunder of Chocolate, un atleta fortissimo e non solo dal punto di vista fisico, che ha dato una spettacolarità e una tecnica molto incisiva e nello stesso tempo accattivante con queste schiacciate prepotenti, in un fisico enorme ma in un cuore grandissimo, tale da contenere appunto la sua generosità d'animo. Ecco, Adam Filippi, che ha contatti con questi campioni, allo stesso tempo mi porta una confidenza tenuta in una conversazione con questi assi della pallacanestro. Oh, Willy, non parlano d'altro. Non parlano altro che quella stagione, quella partita, quella volta che fecero 35 punti, quella volta che fischiarono un fallo che non c'era, quella partita persa o vinta all'ultimo secondo, quella prestazione. Non parlano d'altro, nonostante abbiano praticamente già smesso da anni. Sai che questo mi ha messo un po' di tristezza, sinceramente. Beh, un po' sì, dai. Il concetto di vivere nel passato, aveva detto Bryant, Kobe Bryant, prima di morire. Poi, premessa, non prenderei Kobe Bryant come esempio perché a livello caratteriale è un mitomane e i mitomani, ahimè, non sono mai un buon esempio. Però lui smise di giocare a basket e si buttò nel mondo dell'animazione. Sì, è vero. E addirittura vinse, no, quell'Oscar per l'animazione. E lui disse in una delle poche interviste dove invece appunto di sembrare un mitomane sembrava una persona piacevole con degli interessi esterni al basket, disse: se nella mia vita continuassi a vivere solo di basket, vorrebbe dire che la mia vita professionale e di passioni appunto sarebbe morta a 40 anni e io voglio provare a fare altro, voglio provare a cercare altro. Ecco, nonostante e lui si è buttato su quello. Non abbia una grande simpatia, perché le stesse critiche che stai riportando per l'enorme Kobe Bryant io le condivido in toto. Ecco, in questo caso l'affermazione di Kobe Bryant è assolutamente condivisibile. Sì, assolutamente. È un bel esempio in questo caso di accettazione, ma soprattutto di crescita. Per molti non è esattamente così. Ecco, questa è più la parte dedicata alle ombre. Per quanto riguarda le luci, va da sé, la passione, poi in fondo che male c'è, voglio dire, continuare, no, a giocare a pallacanestro, mica c'è nulla di male. A me è incuriosito molto il percorso per quanto riguarda questi campionati e questi motivi di aggregazione, che sono partiti dal playground e adesso fanno campionati europei. Tra l'altro la nostra nazionale over non so che cosa ha avuto risultati importanti in un europeo, e il campionato e il team in questione è Italia Golden Player, mi pare. Poi questi, no? Nomi, no? Golden, esatto. Player. Oldie but Goldie, esatto. Potrebbe essere l'attinenza. Sì, in effetti, poi c'è il discorso della fisicità. La fisicità cambia, non c'è niente da fare. Perché... E ahimè, secondo me, cambia anche la qualità, la qualità, certo, dell'interpretazione. Che certo. Anche lì, no, ce la possiamo raccontare... O meglio, possiamo dirci la verità che l'esperienza sopperisce alla mancanza atletica, però comunque stai comunque facendo uno sport. Esatto, ti assicuro che questo è un contentino e per me va in tutte le discipline sportive, ma va anche nella nostra vita, non che ben sapete, no, il mio parere. Addirittura ho lanciato l'hashtag cambiategli nome, perché ormai la pallacanestro, fino a un certo punto, ha motivo di essere pallacanestro per come viene interpretata, però molti mi hanno consigliato di seguire questi campionati perché ancora ovviamente si gioca in maniera più attinente, forse. E invece io, perché ti voglio bene, so che hai una passione per la non pallacanestro, o meglio per la conoscenza della non pallacanestro, gli americani hanno spinto l'asticella ancora più in là, perché no, cosa c'è di più bello dell'americanismo in questo senso e del rendere l'eccessivo ancora più eccessivo? Nel 2017 Ice Cube, hai presente? Ah ok, certo, il rapper, esatto, californiano del West Coast. Esatto, fonda questa lega di basket 3 contro 3, scusate, che è, come dire, molto... in un modo molto banale ha chiamato Big Three, che è fondamentalmente un ospizio per quella media alta borghesia NBA, giocatori buoni soprattutto in uno contro uno, ma non buonissimi, quindi non si parla dei Kobe Bryant, non si parla, chiesero a Kobe Bryant se volesse andare quando si era ritirato, lui ovviamente rispose piuttosto picche. Faccio i cartoni animati. Esatto, assolutamente, ed è una lega, io ai tempi quando uscì era estate. No, d'estate. Certo. Lo sport, secondo me d'estate lo sport è sempre più bello, perché sì, tutto è più bello, esatto, d'estate. O si ha più tempo, o comunque si ha la concezione di avere, la sensazione di avere più tempo. E quindi no, mi misi a guardare questa Big Three, uno spettacolo immondo. Cioè questi giocatori di 35, 40, 45 anni che non solo erano fuori dal loro prime atletico, ma anche tecnicamente erano delle capre veramente impressionanti, tiri da 10 metri, sì, penetrazioni dopo. Senza senso. Impossibili. Eppure questa lega vive ancora, vive ancora in un modo relativamente particolare, perché hanno inventato tutta una serie di regole. È un 3 contro 3. Okay, e esatto, e la FIBA ha tutta una serie di regole riguardo appunto il 3 contro 3. Addirittura, no, ora ci sarà le Olimpiadi, il basket in questo formato. Mamma mia. E questi americani decidono no, che loro sono americani e quindi sono diversi, un po' sulla falsariga del chiamarsi World Champions quando vincono, certo, quando vincono il titolo. Hanno introdotto il tiro da 4 punti. Mamma mia. Hanno introdotto una palla speciale per il tiro da 4 punti. Quando rubi, no, regola del campetto, se rubo il pallone comunque esco dall'area per iniziare, certo, la... No. Ah, se no, ti rubo il pallone poi posso andare a schiacciare. E sai come vengono definiti, almeno venivano definiti sotto il ponte di Via Libio dove c'è il playground negli sono curioso, no? Dei vermi. Dai, non fare il bigatto, esci, falla girare. Questa è una lega dove secondo me l'approccio è un po' da vermi. È un po' da bigatti. Adesso metterò un brano di un musicista, un sax tenore, lui è Archie Shepp, musicista incredibile, musicista oltre che l'impegno importante dal punto di vista sociale, tanto più che questo brano, che è uno dei suoi standard, è Attica Blues, dedicato al carcere di Attica per le condizioni in cui i prigionieri venivano trattati, tanto più che vi fu una famosa ribellione importante con tanti aspetti insomma contraddittori e gravi. Informatevi se volete sulla rivolta del carcere di Attica. Comunque lui dedica un brano bellissimo, adesso lo ascolteremo, e al Paradiso Jazz arriva un ultra ottantenne Archie Shepp. Io me lo ricordavo da Attica Blues, ho ascoltato i suoi dischi, ho diversi capolavori di questo uomo, oltre che talentuoso, molto impegnato. Ecco, vederlo, che praticamente poi il sax, come ti puoi ben immaginare, richiede una certa fisicità, certo, no? Vederlo così provato, vederlo affaticato, come ho detto in precedenza, mi sono reso conto che ho dato omaggio e rispetto a un monumento. Ma per quanto riguarda il contemporaneo, l'attualità e la performance che è stata proposta, sì, per carità, ci mancherebbe, però insomma preferisco ricordarlo in questo, esatto, modo, in altre versioni. Just dream on. Sì, questo urlo, questo motivo di presenza, questa intensità, questo muro di piatti, appunto, che va a splendere con un motivo di funky jazz così portato da Archie Shepp, e ritrovarlo come qualcosa di più statico, di interpretativo. Sì, certo, ti rendi conto che Archie Shepp è Archie Shepp, però da motivo di riflessione, insomma. Intanto è arrivato anche Paolo Onofri, diamo il buongiorno a Paolo e lo sentiremo magari alla seconda parte del Mood Groove. Lino, ho giocato l'ultimo match 10 anni fa, poi ginocchia e spalla non reggono più, capisco, giusto qualche tentativo di tiro ogni tanto, invece per gli over 70 musicali mi vado a gustare Nile Rodgers a Perugia. È grande Nile Rodgers. Ricordiamo però che Nile Rodgers è un produttore anche, e ovviamente questo lavoro ti dà la possibilità di esprimerti anche oltre, nonostante le problematiche di salute che ha avuto questo grandissimo nel mondo della musica, producer e musicista degli Chic. Lui ha avuto la produzione del capolavoro dei Daft Punk, Random Access Memories, però insomma, onore al merito e anche un grande gusto e per tutto quello che sta facendo per la musica. Ora nella produzione è diverso che essere, insomma, è un impegno diverso, altrettanto importante, sì, sì. Per carità, però è un impegno meno diverso. Frontale, diciamo, meno frontale, esattamente. E ricordo anche, oltre al concerto di Archie Shepp che mi ha portato a queste riflessioni, allo stesso tempo un All-Star Game del 1984 in cui fecero negli eventi paralleli, hanno provato a riportare un All-Star Game di vecchie glorie nella NBA. Anche in questo caso, ecco, le sensazioni sono state molto simili. Beh, diciamo che il girovita limitava molto questi atleti, ma è comprensibile. Ma cioè, sì, ma dopo una vita di sacrifici magari non hai voglia. Esattamente. E un altro aspetto prima della pubblicità che ho notato: nella parte attuale per questi campionati, gli atleti che fanno presenza con grande entusiasmo a queste competizioni over, con tutto il rispetto per la loro carriera, che stimo tantissimo, ma sono atleti non, come posso dire, superassi, con tutto il rispetto, di primo livello, sì, di primissimo livello, sono giocatori che hanno vissuto di pallacanestro in maniera importante, ma non, come posso dire, degli all-star. E anche questo dà da riflettere, secondo me, per quanto riguarda questi percorsi tra l'età e lo sport. Sono le 8:27 minuti, ascoltiamo Hopscotch di Charlie Rose, fido compagno anche lui al sax tenore di Thelonious Monk. Rientriamo e alzeremo un po' in ritardo la palla 2, dai, facciamo così, a tra poco. Thank you. Posso dire la mia? Scusate il ritardo. Buongiorno a tutti. Buongiorno Willy. Buongiorno. Tutti, buongiorno Willy, buongiorno Pietro, buongiorno a tutti. Ma io stimo di più uno come Adrian Dantley, che ha fatto 26-27 mila punti in carriera in NBA, ma quando è arrivato a un punto di voltar pagina l'ha voltato. E stimo di più uno che adesso fa l'Umarens e accompagna i bambini sulle strisce pedonali dalla scuola anch'io al pulmino e viceversa, e si è ritagliato questo lavoro qua, anziché rimanere sempre nei momenti dei tempi migliori, quando i tempi migliori sono spariti già da mo. Buongiorno, bella questa palla a due. Io la condivido in pieno. Ma, dagli torto. Io la condivido in pieno. Saper vivere la propria età. Ecco, è il consiglio che assolutamente posso dare in ogni ambito. Non è facilissimo, magari, per chi ha toccato determinate vette, però si può anche restare legati all'espressione artistica o sportiva, ma bisogna essere dei miracolati, come Wayne Shorter, purtroppo scomparso qualche anno fa, ma a 86 anni ha fatto questo disco, che non è un disco di mestiere, anzi è un disco di modern jazz, lui al sax soprano, uno strumento non facile, Without a Net, quello che stiamo ascoltando per la Blue Note, e non è un disco di interpretazioni o un disco di mestiere, però qui stiamo citando i miracoli, se vogliamo, e tanto più che la formazione che ha portato assieme al grande sassofonista Wayne Shorter, che lo ricordiamo per il quintetto con Miles Davis, lo ricordiamo per i Jazz Messenger, sempre stato un musicista estremamente formito e di gusto, lo stesso Danilo Perez, John Patitucci e Brian Blade, il trio che accompagnava Wayne Shorter per questo disco, i Children of the Light si facevano chiamare, Children of the Light, sono rimasti in attività anche dopo Wayne Shorter. Senti. Per la bellezza del lavorare assieme con questa colonna importante che questo monumento resta, ma in questo caso è un monumento che ha lasciato, e come, accidenti anche nel contemporaneo. Non è più ricoperto di guano, anzi, risplende. I miracolati potrebbero essere in un'altra puntata, ad esempio, non so, Karim Abdul-Jabbar, Robert Parrish, lo stesso Kevin Willis ha giocato tantissimi anni nella NBA, e tanti altri che hanno avuto una carriera lunghissima, addirittura, certo, rendendosi conto del calo fisico e soprattutto anche emotivo, perché dopo che ne hai viste di ogni, penso che rimane la passione, però è fisiologico. In 82 partite di regular season, hai capito? Aiuta il contratto, ma però secondo me subentra la situazione in cui il contratto è l'unico motivo, e allora lì, e allora la passione ne va a scapito, hai capito? Adesso le carriere sono più lunghe o più corte? A me sembra più sono corte. Più lunghe. Ah, più sono stavo più lunghe. Per dire più corte. Sono, no, più, sono lunghe. Più lunghe invece. Ma cioè la carriera media è più lunga perché penso siano migliorati certo, le preparazioni fisiche, allenamenti. Sarebbe interessante fare un confronto sulla carriera media delle stelle. Ecco, perché secondo me bravo, quella è più corta invece. Se non più corta, secondo me ci sono più infortuni di che prima, cioè, no, faccio un esempio, Jordan si è mai distrutto il ginocchio più volte? Sì. Beh, Jordan ebbe un primo infortunio importante. Sì, no, Jordan ebbe l'infortunio non so al come piede, ha fatto, però dopo, così, bene o male, è sempre stato abbastanza costante, o quantomeno si riusciva a essere... Stavo per fare l'esempio di Bird, però anche lui con la schiena ha avuto i suoi problemi. Però diciamo che al centro della carriera era più difficile vedere queste stelle con degli infortuni gravi. E invece anche qui togliamo l'eccezione di LeBron James, Kevin Durant, per fare un esempio, okay. Lui nel 2014-15, che è l'anno dopo che ha vinto l'MVP, si sfracassa un ginocchio, un piede e perde un anno. E quindi e capita è... spesso, no, che le stelle odierne perdano delle stagioni intere. Intere, sì. C'è Kawhi Leonard, una guardia 2-3 molto bello da vedere giocare, perché ha un gioco molto retro, molto palleggiare a sto tiro, sapersi muovere spalle a canestro. Lui è un bellissimo giocatore da vedere, ma non riesce a finire un anno da 7 stagioni, 8 stagioni. Qui a me fa un po' tenerezza, allo stesso tempo mi irrita, e anche per quello, per cercare di far chiarezza nel pensiero, quando vedo questi atleti, no, che trovano nel contorno, cioè il convivio, il post partita, la voglia di stare assieme come una squadra di juniores, alla fine mi mette un po' allo stesso modo inquietudine, mi irrita un po', ma allo stesso modo mi fa tenerezza. È un mondo che non mi appartiene affatto, anzi ammetto che ho provato, però non ha più niente a che fare, un po' che è cambiato, anzi un bel po' che è cambiato, ma non più, magari io ho fatto un po' di jogging, ho fatto delle passeggiate veloci, ne avrei bisogno di farne ancora di più, ma pallacanestro a livello agonistico è un'altra cosa, perché la testa ti invita a fare delle cose, la passione anche, e quando hai poco sangue nella testa perché sei impegnato nell'agone sportivo, poi il fisico dice guarda che io fin qui non ci arrivo e ti faccio cascare per terra, come mi è capitato, e fortunatamente senza gravi conseguenze, ma è capitato. Voleva dire quasi tutto per avere una carriera. Ricordiamo che la medicina non aveva ancora fatto balzi in avanti come adesso, tipo un tempo se ti rompevi un crociato tendevi le scarpe al chiodo, adesso 6 mesi sei di nuovo in campo. E invece ho sempre ammirato quei giocatori che sono arrivati al top della forma quasi fino a fine carriera, come Karl Malone, come appunto Kevin Willis, come Brian, Dirk Nowitzki, tutta gente che poteva dire ancora la loro, poteva decidere una partita anche alla loro penultima o ultima gara della carriera. Questi sono dei grandi giocatori, non quelli che stanno lì, sono diventati l'ombra di se stesso degli anni d'oro che furono. Ma è tutto un discorso di accettazione, ma guarda che vale anche per il mondo del lavoro. Continuo, quante volte l'avrai sentito anche tu? Ah, io continuo a lavorare, non ci sono mica più i giovani capaci di fare questo. Quello che faccio questo, io. Ma non sono mica più capaci di fare quello che faccio. E adesso, no, è meglio, me l'ha chiesto l'azienda stessa, certo che te l'ha chiesto, così non forza. Ti manda in pensione, non assume, continua a sfruttarti e tiene lontano un giovane da un nuovo posto di lavoro. Grazie che te lo chiede l'azienda, no? Perché io sono bravo, io sì che ho l'esperienza, quindi mi tocca andare avanti, del resto, Io metterei delle sanzioni a chi continua a lavorare nonostante abbia già Ma la sì, pensione. Basta. Basta. Viva Adrian Dantley che aiuta i bambini ad andare a scuola. Ma va bene. Vogliamo dire, suonerà forte, forse ruvido, ma c'è una bellissima dimensione della rinuncia. Dopo un po', basta. Sì. Smetti. Che rinuncia non è, ma esatto. È cambiamento. Oh, esatto. Cambiamento. Non viviamola come rinuncia. Puoi leggerti un libro, puoi andare a teatro, puoi ascoltarti un disco, puoi stare con la tua famiglia, che molte volte diventa uno puoi dei motivi. Annoiarti, il sacrosanto Grazie. Diritto di annoiarsi. Che è la cosa più bella che ci sia. E poi divento un po' cattivello, quelli che dicono no perché devo andare avanti, no, ma la passione di qua, sono quelli che poi fanno le vecchie a un certo punto, sono quelli che si mettono a sedere per primi, pur di star lì. Mentre invece chi ha questa consapevolezza, mi permetto di dire che finché c'è e ci dà. Io faccio formazione ai giovani con grande soddisfazione per quello, perché il percorso, se vogliamo anche progredire, è indubbiamente quando è il momento passare il famoso testimone, per me sì, è un fondamentale. Esatto. Poi certo c'è una continuità, c'è un non solo ricordo concreto, ma allo stesso modo è questa secondo me la modalità di essere presenti. Se no si implode, si cade nell'entropia sportivamente, nella nostra quotidianità, professionalmente e quant'altro. Lo staff che avevo come capotecnico da elettricista, quando alcuni di questi ragazzi poi hanno aperto delle attività in proprio, per me era una gioia, anzi, che bello. Diventavo loro cliente quando... Elogio alla casa di riposo, la chiamiamo, che è questo format, che sta volgendo al termine, anzi alla consapevolezza, direi, non solo sportivamente ma in ogni ambito, con il Move to Groove di oggi, l'imprevedibile martedì di Radio Città Fujiko. Stiamo andando alla conclusione, domani ci sarà il Voltiamo Pagina, collegato al Comini Express, in quanto poi avrete modo di ritirare premi nella serata dalle 18 alle 21, domani con Silvia Albertazzi e Stefano Calabria. Anche i libri a colazione, e come vi ho detto poi ci collegheremo anche nella serata per trovare motivo non solo di convivio ma perché no anche di lettura condivisa. Comunque è curioso aver condotto con te questa puntata, che sei juniores ancora, si può dire, no? Così abbiamo... Tu quando vedi... Le due campane proprio. Tu quando vedi tutto ciò, che emozioni, che... Ti stanno antipatici oppure no? L'istinto è una domanda, perché? Cioè, cosa ti spinge? Ma è una domanda sincera, seria, non retorica. Seria. Cioè, cosa ti spinge? Poi non ti nego, sentendo le risposte 9 volte su 10... L'altra parola mi viene in mente, basta, ma smette, ma chi te lo fa fare? Libri a colazione sarà domani, il Move to Groove invece ritornerà martedì prossimo, seppur leggermente in ritardo ma con grande qualità. Ringrazio anche Paolo Onofri. Noi ci vediamo, intanto ti metti al lavoro per una nuova puntata magari. Dobbiamo a Lino tra l'altro il profilo di Jaylen Brown. Lo faremo la prossima puntata, a meno che non arrivino illuminazioni. Basta che la grande mietitrice non si metta al lavoro, speriamo ben di no. Facciamo gli addebiti scongiuri. Ringraziandovi per l'attenzione, vi diamo appuntamento a domani con il Breakfast Club, lasciando spazio all'Edipo Enciclopedico. Un buon martedì a tutte e a tutti, da Pietro, da William, da Paolo e dal Mutu Group. Grazie Pietro, ciao. Ciao.